Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Ancora insieme anche oggi con l'Adico, l'Associazione Difesa Consumatori di Mestre, saluto nuovamente Gianluca Codognato. Ciao Gianluca. Ciao Francesco, un saluto agli ascoltatori. Dico nuovamente perché un paio di giorni fa abbiamo parlato delle spese dell'italiano medio e parlavamo anche che nella spesa dell'italiano e della famiglia c'è l'incidenza degli immobili, quanto costano gli affitti, ma anche la manutenzione della casa, le bollette e via dicendo, ma poi c'è anche la macchina che ahimè è fonte di perdita di denaro, vorrei dire continuativa, sia nella benzina, che dovrebbe costare molto meno, ma questo è un parere mio ovviamente, ma credo di molti altri, ma anche per esempio diventa una fonte incredibile di spesa quando ti arrivano le multe. Sì, infatti probabilmente accennavamo anche l'altra volta alla problematica tra virgolette legata alle multe. Oggi però vorremmo accennare a una questione su cui stiamo cercando di andare a fondo, e in questo caso stiamo cercando di andare a fondo con il Comune di Venezia. Dobbiamo cercare di capire perché sta succedendo un po' qualcosa di strano nel nostro comune. Sì. E cioè, io parto da una vicenda capitata a un ragazzo che tra parentesi fa appunto il panettiere, il quale l'altro anno, nel 2015, ha ricevuto una PEC da Equitalia nella quale ci contestavano due multe, anzi in realtà una, però dopo sono diventate due perché non aveva comunicato ovviamente chi era alla guida, quindi due multe del 2011 che erano multe da 130 euro, però sono più che decuplicate, quindi praticamente è stato costretto a pagare 1600 euro. Scusami, quindi multe di eccesso di velocità, quelle fatte con il fotolaser, qualcosa del allora, genere? Allora, anche questo, lui le ha pagate senza andare a fare un accesso agli atti, poi andremo a raccontare poi la parte successiva, e senza chiedere un accesso agli atti, quindi oggettivamente lui in questo momento aveva delle tempistiche per pagare, ha pagato, non si è chiesto il perché e il per come, però chiaramente essendoci una sottrazione di punti, noi leggiamo che non può essere certo un passaggio in ZTL, ma deve essere qualcosa appunto tipo eccesso di velocità, un passaggio con un rosso, però evidentemente non, in quel momento non è andato a fondo sulla questione. Cosa succede? Succede che però di recente gli è arrivata un'altra richiesta di pagamento da parte di Equitalia, sempre via PEC, in questo caso di 781 euro. Bene, la persona in questione chiaramente si è chiesta, ma com'è che devo pagare queste multe se non ho mai ricevuto delle notifiche? È la stessa domanda che si era posto quando ha pagato i 1600 euro, però si è detto, vabbè, probabilmente mi è arrivata la notifica, non l'ho vista, ma che pago? In questo caso invece è andato dai vigili a informarsi e ha scoperto che in realtà altre 6 multe che sono già in mano a Equitalia, per un totale quindi di 2361,40 euro, che insomma è una cifra importante. La persona in questione dice, ma io non sono così stupido che dopo aver pagato 1600 euro vado a buttare via altre 5 avvisi, mettiamo che lui non fosse a casa, fa il panettiere, quindi lavora tutta la mattina, mettiamo che non fosse a casa, però l'avviso delle poste deve restare chiaramente nella cassetta delle lettere. Lui dice, io questi 6 avvisi non li ho visti, quindi voglio cercare di capire cosa stia succedendo. Per questo, tramite Adico, il consiglio è stato quello di fare un accesso agli atti. Tramite l'accesso agli atti vogliamo capire non tanto come ha preso le multe, quanto piuttosto che tipo di giro hanno fatto appunto le notifiche, se gli è arrivato davvero il postino a casa, se c'è qualcosa che testimoni che davvero gli è arrivata la notifica, perché Francesco, noi sappiamo che dal giorno della notifica posso fare molte cose, tipo posso pagare la multa in 5 giorni e averla ridotta del 30%. I nostri dubbi, le nostre perplessità nascono per il fatto che questa cosa sia stata segnalata in realtà da più persone. Cioè più persone vengono qua disperate, diciamolo chiaramente, con multe che variano dai 700-800 euro, tutte multe già passate a Equitalia, quindi già raddoppiate, già triplicate, per le quali i soggetti che sono rivolti a noi dicono che almeno a loro non risulta sia mai arrivata la notifica a casa. Capisci che insomma è una situazione un po' difficile da capire, insomma, sulla quale vogliamo cercare di andare a fondo assolutamente. Quindi bisognerà aspettare che voi facciate le vostre indagini e poi teneteci assolutamente informati, perché queste cose a me danno molto fastidio, mi viene il bruciore di stomaco. Ecco Francesco, oltre a tenervi informati, io invito chiaramente tramite la tua preziosissima trasmissione a contattarci nel caso in cui ci siano persone, ma credo che ce ne siano tante a questo punto, che rivelino insomma la stessa problematica. Ora, il meccanismo è un po' faraginoso, è il meccanismo della notifica, però insomma è abbastanza chiaro, nel senso che il messo comunale, ma più probabilmente il postino, porta la multa a casa, la famosa busta verde. Se trova qualcuno, chiaramente il soggetto prende la busta e quello è il momento della notifica, ovviamente. Se non trova nessuno, lascia un avviso nella cassetta delle lettere. La lettera, chiaramente, la notifica, quindi la multa, torna alle poste. Se entro 10 giorni nessuno va a ritirarla, la multa ritorna alla Polizia Municipale. Ora, da quando è alla Polizia Municipale, passerà ancora del tempo, perché si sa che comunque, teoricamente, l'automobilista ha o 30 giorni dal giudice di pace o 60 dal prefetto per fare ricorso. Quindi capisci bene che insomma ci dovrebbero essere delle tempistiche dilatate, tali per cui a un certo punto una persona, soprattutto una persona con 6 multe, si dovrebbe accorgere di avere una multa da dover pagare, da andare a ritirare o alle poste o dai vigili. In questo caso rivediamo che tutte queste persone che sono rivolte a noi dicono che non risulta mai arrivata una notifica. Fatto sta che noi in questo momento ci troviamo di fronte non a multe appunto prese qualche mese fa, ma tutte multe raddoppiate o triplicate e inviate direttamente da Equitalia. Ci stiamo chiedendo effettivamente cosa stia succedendo, anche perché Francesco, ce ne abbiamo le idee, ma cerchiamo di farle chiarire anche a chi fa questi verbali, o a chi dà le multe, o a chi ci governa, ecco, per fare un po' di demagogia, ecco. E che insomma 1.600 euro, 2.300 euro e queste cifre qua 700 euro sono cifre molto importanti e oggettivamente possono anche mettere in gravissima difficoltà una famiglia. Aspettiamo di avere altre notizie, ne torneremo sicuramente a parlare. Grazie all'Adico, ricordo il sito www.associazionedifesaconsumatori.it. Grazie a Gianluca Codognato, alla prossima settimana. Grazie a te Francesco. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma, vai su bluradioveneto.it.